Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. L'arte ha bisogno di solitudine, di miseria o di passione. È un fiore di roccia che richiede il vento aspro e il terreno rude. Così nel XIX secolo scriveva Alexandre Dumas, facendosi interprete dello struggimento e della quotidiana lotta di tutti gli artisti che lo hanno preceduto e seguito. È assai più probabile che il guizzo del genio scaturisca dalle difficoltà e dal disagio, che non dalla calma e dalle comodità di un'indole serena e pacata. Si sa, convivere con il sacro fuoco dell'arte non è certo una passeggiata. $75 milioni. A questa cifra record è stato battuto il ritratto del dottor Gachet, un olio su tela del 1890, dipinto dal folle e geniale Vincent van Gogh, che certamente all'epoca non avrebbe immaginato di poter aspirare a simili compensi. Artista problematico e incompreso, passò la vita a sfogare le proprie intime frustrazioni sui quadri, imprimendovi il suo sentire con pennellate dense e volitive. Nessuno lo capì e lo apprezzò finché visse. Morì disperato, solo, senza il becco di un quattrino. Solo una volta scomparso, la sua opera inizia ad essere compresa e rivalutata. E questo del pittore olandese è solo uno dei tanti esempi di genio bistrattato che affollano i libri di storia e le cronache di ogni epoca. L'Ottocento, in particolare, ha prodotto una gran quantità di artisti sofferenti e tribolati, perfetti figli dello spirito romantico e delle sue molteplici sfaccettature. Charles Baudelaire, il poeta maledetto, oggi considerato uno dei grandi, imprescindibili classici della lirica francese mondiale, al suo tempo lottò contro i morsi della fame e le insidie della disperazione. Tentò varie volte il suicidio, si consolò bevendo l'assenzio e scrisse rime sentite e dolenti. Baudelaire vale come modello per il fatto che è uno dei più grandi poeti moderni della storia, quindi è sempre meglio prendere come modello lui che un tronista. Francesco Bianconi, leader e voce dei Baustelle, cita Baudelaire con quel tocco di supponenza da cantautore consumato e consapevole della presa che le figure maledette hanno da sempre sul pubblico. Certo, è facile mitizzarlo dalla nostra prospettiva, ora che i critici e i lettori lo hanno ormai consacrato sull'altare dell'eccellenza poetica. Ma ci è voluto del tempo. E addirittura è stato necessario l'intervento della Corte di Cassazione francese, che nel 1949, a quasi un secolo dalla sua scomparsa, ha finalmente deciso di riabilitare le opere e la memoria del poeta scomparso. Fai come faceva Baudelaire. Pasolini è morto per te, morto a bastonate per te, nei fiori dei campi vive Piero Ciampi. Bisogna studiare Baudelaire. Difficoltà e tribolazioni non sono una prerogativa della pittura e della poesia. C'è un altro figlio dell'Ottocento che ha vissuto i patimenti tipici dell'essere incompresi. E questa volta parliamo di un musicista. Quella che sentite in sottofondo è la Sinfonia numero 8 di Gustav Mahler, genio austriaco del pentagramma, il cui astro, suo malgrado, non ha brillato troppo durante gli anni della sua attività. Il talento di Mahler, come quello di altri illustri colleghi, fu riconosciuto troppo tardi perché lui stesso potesse accorgersene. Trattasi, anche in questo caso, di riscoperta postuma, avvenuta grazie all'incontro e alla sinergia dei due protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi. Conosciamo subito il primo. Il suo nome è Leonard Bernstein. Leonard Bernstein. Siamo a New York, la capitale indiscussa della modernità. Sono gli anni 60 e la città vive un fecondo periodo di fermento artistico e culturale. Da una parte Andy Warhol e la pop art, dall'altra i prodromi delle contestazioni studentesche e pacifiste. Eppure c'è un luogo, la Avery Fisher Hall, una sala da concerto ritagliata all'interno del Lincoln Center of Performing Arts nell'Upper West Side, dove si celebra la tradizione anziché l'avanguardia. Lì, in quel luogo sacro e protetto da un'acustica impeccabile, Leonard Bernstein, direttore della New York Philharmonic, sta facendo rivivere le note di Gustav Mahler, un compositore fino a quel momento poco apprezzato dai musicofili di tutto il mondo. Lo scopo del quarantenne neo direttore di una delle orchestre più prestigiose degli Stati Uniti è quello di riabilitare un autore bistrattato troppo a lungo, sviscerandone l'animo complesso di traghettatore di suoni a cavallo di due secoli, l'Ottocento e il Novecento. L'idea di rimettere mano all'intera opera di Mahler gli è venuta in virtù di un incontro molto speciale. È stato il rendezvous con la custode di quegli spartiti dimenticati, con la stessa mano che anni addietro aveva diligentemente ricopiato quelle note una ad una. È ancora presto per conoscerla, ma la sua presenza in quel pomeriggio newyorkese è per Bernstein garanzia di continuità ed è ciò che lo spinge a dare il massimo. Ma qual è stato il percorso umano e professionale di Bernstein? E qual è stata la via che lo ha condotto all'ardente desiderio della riscoperta di Gustav Mahler, l'uomo che 50 anni prima ha diretto, seppur per breve tempo, quella stessa celeberrima orchestra newyorkese? Per scoprirlo, facciamo un passo indietro e andiamo a conoscere da vicino il nostro primo protagonista di oggi. Se un bambino non sente l'interesse, per esempio, per la musica dei propri genitori, se i suoi genitori poi non lo portano a sentire la musica fuori, è difficile che lui possa poi avere questo sviluppo. A sentire il giovanissimo direttore d'orchestra Mathieu Montanus, l'influenza della famiglia è fondamentale per sviluppare sin da piccoli un'attitudine alla musica. Esattamente il contrario di quello che è successo a Leonard Bernstein, classe 1918, figlio di immigrati ucraini sbarcati in America in cerca di fortuna all'inizio del secolo. Una casalinga e un venditore all'ingrosso di prodotti per parrucchieri. Ecco cosa sono i genitori del futuro musicista e direttore d'orchestra, i cui primissimi contatti con la musica passano esclusivamente attraverso le frequenze radiofoniche. Il piccolo Leonard gioca divertito con la manopola della radio, curioso di ascoltare le melodie che sprigionano dagli altoparlanti. E non importa che si tratti di pop, jazz, opera o sinfonie. L'importante è che sia musica in qualsiasi meravigliosa, eterogenea forma. Vengo da una famiglia in cui non c'era un particolare interesse per la musica. In casa non c'era un pianoforte né nessun altro strumento musicale. Un giorno, quando avevo 10 anni, mia zia Clara dovette trasferirsi da Boston, dove vivevamo tutti, e il trasloco le impedì di portar via con sé gli oggetti più ingombranti, incluse alcune enormi poltrone damascate ed uno sgangherato pianoforte a muro, di cui mi innamorai perdutamente. La cotta non mi è ancora passata. Leonard si avvicina alla musica per caso. Un nuovo oggetto nel salotto, legno lucido e una lunga fila di tasti bianchi e neri. Inizia a strimpellarci da solo, scoprendo un poco alla volta le magie delle note, dei toni e dei semitoni, delle scale, delle toniche e delle dominanti, fino a lasciarsi conquistare completamente. Leonard ha 14 anni, quando suo padre, dopo una serie di suppliche ed insistenze, acconsente a portarlo a un concerto di musica classica. Il signor Bernstein, a dire il vero, non possiede un'alta opinione della categoria. La sua opinione sui musicisti era più o meno questa, importata dal ghetto russo in cui era cresciuto. I musicisti per lui erano poco più che degli accattoni, gente che se ne andava in giro di città in città con in mano un clarinetto o una fisarmonica, suonando per strada o magari ogni tanto qualche matrimonio o bar mitzvah in cambio di un pasto caldo. Questo è quello che mio padre pensava dei musicisti ed era questo quello che io volevo diventare. Mio padre era inorridito all'idea. Nonostante la riluttanza iniziale, padre e figlio partecipano alla serata benefica organizzata presso il Tempio di Boston dalla comunità ebraica cittadina, di cui Bernstein fanno orgogliosamente parte. È la prima volta che Leonard sente suonare un'orchestra dal vivo e l'emozione in lui è fortissima, l'ansia e l'eccitazione palpabili. La performance si chiude con un grande classico, il Bolero di Maurice Ravel. Era la mia prima esperienza al cospetto d'un'orchestra. E sentire quel pezzo, che è una specie di Bibbia della musica sinfonica. A Leonard basta un attimo per sapere con certezza che quella è la sua strada. Non ci sono più dubbi su quello che il giovane Bernstein vuole fare da grande. A un certo punto lo seppi e basta. Volevo fare il musicista, scrivere musica, vivere di musica. Ma mi serviva qualcuno che credesse in me. In mancanza di un supporto esterno, di qualcuno che creda davvero nelle sue potenzialità e nella sua sfrenata voglia di percorrere la strada della musica, Leonard cerca di mantenersi come può. Per pagarsi le lezioni di pianoforte, insegna musica ai bambini durante la settimana e nei weekend suona in un complesso jazz in giro per i locali di Boston. La sua ferrea determinazione finisce per convincere il padre della bontà dei suoi intenti. Il signor Bernstein sceglie perciò di investire sul figlio e lo manda a studiare prima alla prestigiosissima Boston Latin School e poi all'Università di Harvard, dove il giovane si laurea, manco a dirlo, in discipline musicali. Ma un 110 cum laude alla tenera età di 20 anni non basta a convincere il padre della concreta opportunità di costruirsi davvero una carriera in ambito musicale. Eppure Leonard è pieno di talento. Ha tutte le carte in regola per sfondare come musicista. E non si tratta soltanto dell'opportunità o meno di intraprendere una professione. Per Leonard la musica è più di un mestiere, è un istinto, una pulsione e la ragione di una vita intera. I love two things. Amo essenzialmente due cose: music and people. La musica e le persone. Non so quale delle due sia la migliore, ma so che faccio musica perché amo le persone e adoro lavorare con loro e suonare per loro. La musica mi permette di comunicare con la gente ad un livello più profondo, che è appunto quello musicale. La musica è una questione di vita o di morte. A Leonard non resta che farsi strada da solo, schivando a fatica la riluttanza paterna. Ho continuato a lottare in quel che credevo. Così un'estate ho preso e sono andato a New York in cerca di un'occasione. Non è facile ritagliarsi un posto in una città certamente piena di fermento e di opportunità, ma anche di persone che sgomitano in cerca del proprio spazio vitale, umano e lavorativo. Eppure, sarà proprio qui, a New York City, che Leonard Bernstein troverà la fortuna. Una città magica, il cui orizzonte profilato dai grattacieli si imprime indelebile nella memoria e nei cuori di chi ci vive. Capitolo primo. Adorava New York, la idolatrava smisuratamente. Ma no, è meglio là, la mitizzava smisuratamente, ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Con queste parole, Woody Allen, nel monologo iniziale di Manhattan, fa una dichiarazione d'amore alla sua città, sulle note della Rapsodia in blu di Gershwin, geniale compositore statunitense che seppe fondere la musica classica con i ritmi e le peculiarità così tipicamente americane del jazz. Leonard Bernstein entra nella scia del suo predecessore, coniugando modernità e classicità, impeto e rigore. New York lo abbraccia con entusiasmo. Nel 1943 viene nominato assistente dell'allora direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica, Bruno Walter. Quando questi resta a letto a causa di un'influenza, Leonard, senza alcun preavviso e senza aver nemmeno provato, dirige l'orchestra da sé e ottiene un successo clamoroso, suggellato da recensioni entusiastiche sul New York Times. Viene chiamato ad affiancare Arturo Toscanini in alcuni concerti della NBC Symphony Orchestra e finalmente nel 1957 prende il posto del suo mentore Dimitri Mitropoulos alla direzione della New York Philharmonic. Una carriera fulgida, fulminante, che dopo aver sperimentato il plauso della critica e le ovazioni del pubblico sta per intraprendere una nuova esaltante sfida. Torniamo nell'Upper West Side, nella sala da concerto dell'Avery Fisher Hall, dove risuonano le note maestose di Gustav Mahler. Leonard Bernstein sta provando l'ottava sinfonia di Mahler con la sua orchestra. Quella di far rivivere le note del compositore austriaco è una sfida che il direttore della New York Philharmonic sente con particolare pathos, come una specie di imperativo morale. Tra il pubblico, infatti, seduta comodamente su una delle tante poltrone di velluto, c'è una graziosa ottantenne, occhi vispi e sorriso raggiante. Quelle melodie per lei rappresentano il ricordo di una vita, di un amore, di un glorioso passato che necessita di essere rispolverato. Leonard Bernstein è l'uomo che fa il caso suo. Take me to heart, and I'll always love you. And nobody can make me do wrong, take me for granted, leaving love unsure makes willpower weak and temptation strong. Should understand she's not just a plaything, she's flesh and blood just like her man. If you wanna do Destini incrociati a New York, nella Avery Fisher Hall, la meravigliosa sala da concerto del Lincoln Center, sede della New York Philharmonic. Leonard Bernstein, direttore della prestigiosa orchestra cittadina, è alle prese con una sinfonia di Gustav Mahler, compositore d'inizio Novecento scomparso prematuramente e mai effettivamente compreso né dai contemporanei né dai posteri. Là, tra le file di poltrone di velluto della platea, sta seduta l'unica persona che avesse mai capito Gustav Mahler in tutta la sua vita. In tutto il suo confuso miscuglio di genio, rigore e sregolatezza. Ha 80 anni, i capelli candidi e il viso segnato dal tempo. E pensare che una volta era lei la più bella ragazza di tutta Vienna. Il suo nome è Alma Mahler. Alma Mahler. Alma e Leonard si incontrano a una cena di amici comuni. Per Bernstein è una sorpresa e un onore conoscere la moglie di Mahler, compositore viennese di fine secolo, che lui ha deciso di rappresentare più per intuito e sensibilità musicale che per vera scelta culturale. Dialogare con quell'anziana donna lo porta a interessarsi al fervore di quegli anni, di una Vienna imperiale che non c'è più, in cui la musica insieme alle lettere tesseva una parte fondamentale della storia d'Europa. Ecco che per Bernstein si evidenzia in tutta la sua importanza la necessità di prendere in mano tutta l'opera del compositore austriaco, ora che davanti a lui c'è la chiave per interpretarla. Alma, da parte sua, è affascinata dal piglio di direttore d'orchestra che si agita davanti ai suoi occhi. È appassionato, assorbito dalle note, totalmente compreso nel suo ruolo di comandante supremo di archi, fiati, ottoni, legni e percussioni. La signora Mahler si rende conto a sua volta che quel direttore d'orchestra è potenzialmente l'unico in grado di comprendere e valorizzare appieno l'opera dell'ex marito. È Bernstein in persona a parlarci dell'amore smisurato nei confronti del suo mestiere. Il suo è il ritratto di un interminabile istante di rapimento ed estasi, teso verso l'esplosione corale dell'ensemble degli strumenti. Come posso descrivervi la magia del momento in cui stai per iniziare a dirigere un brano in un concerto? C'è solo un'unica precisa frazione di secondo in cui ti accorgi che quello è l'istante perfetto per cominciare. C'è l'attesa, sospesa, mentre l'orchestra si prepara a suonare. E intanto il direttore si concentra e raccoglie tutte le sue energie e il pubblico si fa silenzioso. Ancora giusto qualche colpo di tosse. Poi tutto è muto. Non un fiato. Non un suono. E poi bang! Leonard Bernstein e Alma Mahler stanno ripercorrendo insieme una storia che lei ha vissuto in prima persona e che lui non può conoscere se non attraverso gli spartiti, sudati, profondamente sentiti, scritti da Gustav Mahler e poi ricopiati con amore da Alma in persona. Insieme vogliono ridar vita alle sue composizioni, ai suoi guizzi, alla sua genialità. Bernstein è l'uomo giusto per farlo. Alma lo sa con certezza. Sul suo viso da ragazza ottantenne si spalanca un sorriso e sembra ancora di vederla giovane e beata a spasso per le vie della sua amatissima Vienna. la Parigi di lingua tedesca. Ecco che cos'è Vienna agli inizi del Novecento. È affacciata sul Danubio anziché sulla Senna ed è grande quasi quanto la capitale francese, ma le sue case e i suoi palazzi si fondono in forme più armoniose con la campagna circostante, con le dolci colline coperte di boschi. Sono proprio questi gli scorci che fanno da sfondo all'infanzia della giovane Alma. Sono la figlia di un grande monumento in un certo qual modo. Mio padre, Emil Schindler, il modello della mia infanzia, era il rampollo di un'antica famiglia patrizia. Era il principale pittore di paesaggi della monarchia austriaca. Al di là della perfezione bucolica del paesaggio, Vienna offre soprattutto un'atmosfera particolare, irripetibile. È un grande crocevia mitteleuropeo ancora non intaccato dalle sciagure delle due guerre mondiali che di lì a poco si affacceranno alla ribalta della storia. I viennesi amano l'arte, i balli mascherati, i caffè letterari, le carrozze e più di ogni altra cosa la musica. Alma saprà riunire in sé tutte queste passioni. Farà di esse la sua ragione di vita. And only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Impossibile non innamorarsi nell'atmosfera travolgente della Vienna di inizio secolo. La giovanissima, affascinante Alma non è immune ai sospiri tipici di quel periodo e di quell'età. Non ha ancora 18 anni, quando a un convegno di artisti della secessione viennese incontra il pittore Gustav Klimt. Ero giovanissima quando lo conobbi. Aveva 36 anni. Era nel pieno delle sue forze, bello in ogni senso e già allora famosissimo. La sua bellezza e la mia fresca gioventù, il suo genio e il mio talento in campi diversi determinarono un perfetto accordo tra noi. Io ero ignara delle cose dell'amore ed egli mi sentiva e mi ritrovava ovunque. Alma ispira a Klimt le forme e i soggetti di diversi quadri. Il pittore si dichiara affascinato, addirittura rapito dal temperamento della giovane destinata, a suo parere, ad agire da sovrana in qualunque orizzonte popolato da maschi. Ma per Alma non è ancora giunto il tempo per l'amore e Klimt, in ogni caso, non è il Gustav giusto. Il Gustav perfetto per Alma di cognome fa Mahler e dal 1897 dirige l'opera della corte dei reali asburgici. È un musicista celebrato, vilipeso, incensato, attaccato, adorato, detestato. Non conta che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che se ne parli e Gustav Mahler, di fatto, è uno degli uomini più in vista di tutta Vienna, nel bene e nel male. E come accade alla maggioranza della popolazione maschile viennese, nemmeno lui sa resistere al misterioso fascino di Alma, come ci racconta sua nipote Marina. Ma Alma, io me la ricordo come bambina, come un essere pieno di una bellezza luminosa, proprio luminosa. Aveva qualcosa che ti veniva attraverso gli occhi, quasi attraverso la sua pelle. Era si sentiva una presenza, non fisica, ma una vera presenza d'anima. E per una bambina era molto forte, perché io l'amavo. Il matrimonio tra Alma e Gustav Mahler si celebra il 9 marzo 1902, nella più stretta intimità, alla presenza dei soli sposi e dei testimoni. Ma la convivenza con il compositore per la giovane e irrequieta Alma non si rivela una passeggiata. Copio musica per lui, suono il pianoforte per fare bella figura con lui, studio il greco, leggo i libri che gli sono cari, tutto per lo stesso motivo. Ma ripetutamente si impennano in me orgoglio, ambizione, desiderio di gloria invece dello sforzo esclusivo di rendergli più bella la vita. Il carattere indomito di Alma si scontra con le costrizioni imposte dalla vita matrimoniale, dalla fama, dall'indole burbera e difficile del marito, la stessa che per tanto tempo sarà causa del suo ostracismo nell'ambiente musicale. Mahler le impedisce di dedicarsi alle sue passioni, la costringe a un'esistenza votata al culto del consorte, rintanata nei suoi pensieri. Alma sogna la fuga. È a questo punto della sua vita che incontra il pittore Oskar Kokoschka. L'artista, pazzo di lei, le dedica 450 fra disegni e tele, tra cui quel celeberrimo perfetto esempio dell'espressionismo che è La sposa del vento, una dichiarazione d'amore su tela, sentita, sofferta. Alma e Kokoschka sono uniti dalla passione, ma lei è ancora sposata con Mahler e non acconsente a rendere pubblica la loro relazione. A dire il vero, non acconsente nemmeno a proseguirla. Alla morte del marito, scomparso prematuramente nel 1911, Alma sposa l'architetto Walter Gropius, futuro genio del Bauhaus, stile rivoluzionario nel campo del design e dell'architettura. Kokoschka perde il senno. Fa realizzare una bambola feticcio dell'amata a grandezza naturale, fedele all'originale, grazie ai molti e dettagliati disegni. Con quella singolare compagna, il povero, pazzo Oscar attraversa Vienna in carrozza, solo e disperato. L'arte divinatoria di Alma ha fatto un'altra vittima, e non è certo l'ultima. Il matrimonio con Gropius la annoia, e Alma non ci mette molto a rimpiazzarlo con Franz Werfel, scrittore e drammaturgo austriaco. Divorzia da Gropius e convola a terze nozze con Werfel, insieme al quale si trasferisce negli Stati Uniti nell'ottobre del 1940, dopo l'annessione dell'Austria alla Germania e il conseguente aggravarsi delle condizioni generali europee. A Los Angeles Alma gestisce e anima una florida comunità di intellettuali, proprio come negli anni viennesi. Ma New York è la sua passione segreta, come ricorda ancora sua nipote. Poi andava a New York perché diceva con ragione che Los Angeles era noiosissimo, e aveva ragione, la mia madre non capiva perché andava a New York. Io dopo il primo visito e adesso ho capito bene. Alla morte di Franz Werfel nel 1945, Alma si trasferisce nella Grande Mela. Ci trasloca la sua vita, i suoi ricordi, le sue reminiscenze artistiche. La solitudine le dà il tempo di meditare sugli errori, sulle mancanze, sulle occasioni sprecate o gettate via. Ripensa a Mahler, alla sua durezza e all'imperscrutabilità del suo genio. Sa che deve fare a tutti i costi qualcosa per riabilitare la sua memoria. Destini incrociati. A Destini incrociati sono gli anni 60 e siamo a New York, città in cui vive Alma Mahler, ex moglie, fra gli altri, del grande musicista e compositore austriaco Gustav Mahler. Alma sente di dovere all'ex marito una sorta di riconoscimento postumo, sa di essere la sola custode e la sola possibile continuatrice della sua memoria. Lei ha ricopiato meticolosamente i suoi spartiti, lei lo supportò e sopportò il suo duro temperamento e le sue idiosincrasie, lei applaudì ai suoi trionfi e ai suoi fiaschi, finché fu in vita. Lei ne è stata la compagna. Leonard Bernstein ne diventerà l'avatar. Bernstein è ossessionato dalla figura di Gustav Mahler. Si immerge totalmente nella sua musica, ne studia le modalità compositive, la celebra dirigendo grandiosi concerti che ne ravvivino il suono ottenebrato dal tempo e dalla scarsa considerazione che molti, troppi, hanno avuto della sua opera. Le pareti e il soffitto della Avery Fisher Hall di New York City vibrano per la potenza delle note e dei crescendo delle sinfonie di Mahler. Eppure Bernstein sente che dovrebbe essere ben altro il luogo, il teatro della riscoperta del compositore austriaco. Mahler meriterebbe che fosse la sua Vienna a rendergli onore. Riuscite ad immaginare Mahler nella sua stessa città, con la sua stessa orchestra, i suoi stessi musicisti? Ve lo immaginate ad essere bandito? La musica dell'ebreo Gustav Mahler nell'Europa in preda al delirio nazifascista era stata bandita dalle sale da concerto e dai programmi delle filarmoniche cittadine. Per giunta quel ventennio di grossi cambiamenti nell'assetto e nello spirito del vecchio continente hanno reso all'apparenza obsoleto il tardo romanticismo della musica di Mahler, che è stata accantonata soprattutto in quelle stesse sedi in cui era nata. Bernstein è sconcertato dalla brutalità di un simile trattamento. Non lo conoscevano per nulla e avevano molti pregiudizi su di lui. Pensavano che fosse un autore borioso o troppo complicato, troppo emotivo, troppo saturo. Nelle prove questo sentimento generale dell'orchestra era evidente. Opponevano resistenza in un certo senso. Finché ad un certo punto io ho perso la pazienza, perché, santo cielo, quello era il loro compositore, era il compositore della loro città. Bernstein ha un feeling particolare con il compositore austriaco, un legame istintivo. Entrambi sono di origini ebree ed entrambi celebrano la musica non solo attraverso la mente, ma attraverso il corpo. Si agitano sul podio del direttore d'orchestra e lasciano che le note facciano vibrare ogni cellula dei loro corpi. Le caricature che i giornalisti austriaci fecero di Mahler, ritratto nelle pose più bizzarre durante le sue performance alla Filarmonica di Vienna, sono indicative di quanto il suo approccio fisico nei confronti della musica fosse poco compreso e apprezzato dalla stampa e dai suoi stessi orchestrali. Ed è proprio davanti a un manipolo di orchestrali di Vienna che Bernstein accetta la sfida di dirigere Gustav Mahler nella sua patria. È il 1970 e la direzione della Wiener Philharmoniker è nelle mani di Leonard Bernstein. Io lo so che questa è soltanto una prova, ma vi siete chiesti perché stiamo provando? Io so già che conoscete il pentagramma, non è questo il punto. Il punto è che qui di Mahler non c'è l'ombra, non ci sono vibrazioni, e invece dovrebbero essere al massimo. Io non posso sentir suonare Mahler così, non ce la faccio proprio. Questo non è Mahler. Cosa stiamo a fare qui? Non mi interessa se siamo qui da 8 ore di fila. Adesso ci mettiamo qui e riproviamo, o non ci sarà nessun Mahler. La tensione è palpabile. L'orchestra è in subbuglio e il suo direttore altrettanto. So I play the part I feel they want of me. And I pull the shades so I don't see them seeing me. I've been hard times in this crazy town. I've been hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Sembrerà paradossale, ma portare Mahler nella capitale austriaca, nella stessa città dove è nato e vissuto, è molto più difficile di quanto Bernstein si aspettasse. I found it very hard going. È stata davvero dura. Ogni tanto coglievo qualche sussurro, Scheisse Musik, non serve che ve lo traduca. Ma poi si sono accorti di quanto fosse meravigliosa quella musica, di quanto fosse incredibile la risposta del pubblico a quelle note. All'improvviso l'orchestra si è accorta di essere il vascello attraverso il quale si traghettavano dei contenuti sacri da un'epoca all'altra. Finalmente le accuse di troppo romanticismo e troppo movimento mosse per decenni dai compostissimi professori dell'orchestra si stemperano. È una presa di coscienza sofferta, ma finalmente sentita e voluta. Grazie a Leonard Bernstein e certamente anche grazie al suo incontro newyorkese con Alma, Gustav Mahler è tornato a casa propria, nella sua amata Vienna. Bernstein, dopo la parentesi austriaca, torna negli Stati Uniti e continua la sua carriera di direttore d'orchestra, alternandola con quella di compositore. La passione che nutre per il suo mestiere è tangibile, così come lo è quella per l'oggetto quotidiano del suo lavoro, la musica, ovviamente. La musica americana è complessa e sfaccettata, proprio come gli americani. Pensate a tutte le razze e le diverse personalità provenienti da tutto il mondo che compongono la nostra nazione. Basta pensare a questo per renderci conto del perché la nostra musica sia tanto eterogenea. Puerto Rico, my heart's devotion. Il suo cuore di musicista non batte solo per la classica, ma anche per il pop, il jazz, il rock e il musical. Può darsi che non lo immaginiate nemmeno lontanamente, ma Leonard Bernstein è l'autore della colonna sonora che compone e sostanzia uno dei musical più celebri e celebrati di Broadway. Stiamo parlando di West Side Story. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America. E un po' come accade a Maria, la protagonista di West Side Story, anche Alma Mahler ha trovato in America la sua terra promessa, la terra in cui approdare dopo una vita lunga, vissuta e travagliata, la terra in cui arrivare un giorno a riscoprire la sua dedizione per l'ex marito Gustav, il tutto per mano di un giovane americano di 40 anni più giovane di lei. Alma era per qualsiasi persona, penso, una forte impressione. Per molti era una cosa positiva, meravigliosa, e per altri la detestavano. Allora era o uno o l'altro, e per lei, lei voleva essere adorata. Alma ha attraversato il Novecento cambiando per sempre le vite di pittori, architetti e musicisti. Forse non sarebbe stata nulla senza di loro, niente più che una semplice ragazza viennese innamorata della vita. Ma lei era Alma, la sposa del vento, sfuggevole e incomprensibile, a volte tagliente, altre volte travolgente e appassionata. La sua vera arte, di certo, fu quella di essere amata. Può darsi che senza i nomi altisonanti dei suoi mariti e amanti nessuno conserverebbe il suo ricordo, ma può anche darsi che i signori Klimt, Gropius, Kokoschka e Mahler non sarebbero mai stati così grandi se non avessero avuto qualcuno di tanto speciale da cui trarre linfa e ispirazione. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.